Allora, il guardiano del faro, te lo ricordi, Cappa, il guardiano del faro? Quello che faceva quelle canzoni tutte... Ma sai, ma il guardiano del faro faceva queste musiche qua, eh? È per quello che Schettino... Ormai è tutta una primaria, capa. Ci manca ancora che qui all'asilo si facciano delle primarie per qualcosa, poi siamo a posto perché le fanno Però una tutti. volta non si facevano le primarie. Cos'è sta roba che Vero. fanno tutti le Cioè, noi primarie? le vedevamo fare in America, però ci sembravano un'americanata, no? Però tu mi insegni che ormai è tutto un'americanata, anche fuori dall'America. Ma che poi È ste tutta primarie? una Sì, grande americanata. americanata totale, Anche in però. Cina è Eh un'americanata. già, però le primarie fanno sempre venire fuori il peggio degli uomini che partecipano alle primarie. E fanno sempre un male cane al partito che le organizza Eh le sì, primarie. perché si scannano tra loro, mettono in piazza tutti gli altarini che farebbero meglio a tenere nascosti, se ne dicono di ogni e poi concludono sempre dicendo il giorno dopo, amici come prima, tutti insieme per battere il nemico, collaboriamo insieme, Però adesso il lavoriamo problema è che insieme. il casino delle primarie del PD sta nelle regole, capito? Hanno fatto delle regole. Nelle prime Adesso. primarie, no, non c'erano regole. Adesso sì, poteva votare chiunque una volta. Adesso invece c'è tutta una trafila burocratica degna dell'Unione Sovietica che scoraggerebbe anche un ex partigiano rancoroso e desideroso di mettere la croce sul nome del Sì, segretario. perché adesso stanno facendo di tutto per giustamente evitare che le primarie le vinca Renzi. Vabbè, ma perché giustamente? Però e Renzi poi si incazza, per Sì, ma quando questo. si incazza Renzi, basta far risuonare la musica della ruota della fortuna e Renzi non si incazza più. Ma sai che in effetti le primarie del PD potrebbero basarsi sul format della ruota della fortuna? Io comprerei una vocale. Vedi, parte la musichetta e la ruota gira finché poi si ferma sul nome del vincitore, Vabbè, ma capito? così allora può vincere anche Tabacci. Eh beh, certo, Ma ti immagini? Tutti i battibecchi tra Bersani e Renzi e poi vince Tabacci? Eh beh, sarebbe un bel anticlimax. Eh? Anticlimax. E ora, bambini, ricreazione! Uè, Gildo, non vedi cosa mi tocca fare? Non vedi col cappellino in testa, cappellino di lana? E di là non fa neanche tanto freddo, no? Non fa freddo! E qui è un problema. Io adesso qualcuno devo dirlo, mi devo sfogare. Guarda un po' cosa mi succede. Mettiamoci dietro l'albero che non voglio farmi vedere da nessuno. Sei pronto? Mi tocco il cappellino? Guarda un po'. No, ma non guarda in faccia, guarda i capelli. I capelli, lo vedi qua? Come sono tutti ciuffi. Guarda sto ciuffo È davanti. ciuffone! Sto ciuffo dietro qua che va su. E tutto in mezzo alle stoppie. Sembra che. Vedi come. Adesso me lo rimetto. Sai cosa mi è successo? Mi hanno portato dal parrucchiere cinese. I miei genitori. Cinese! Cinese? Milano è pieno di parrucchieri cinesi, eh? Adesso stanno spopolando. Perché tu vai lì, ho il bambino, buongiorno, bambino. Shampoo e taglio? Shampoo e taglio? 5 euro. 5 euro, eh? E niente! In più, mia madre, che è una che sa come si fa, ha trovato un accordo con un parrucchiere cinese vicino a casa nostra, no? Che nei 5 euro globali mette anche un servizio di babysitting, no? Babysitting? Babysitting. Che poi babysitting, vabbè, è una parola grossa, perché insomma, sono stato lì, perché mi ha lasciato lì 4 ore, quindi, in un parrucchiere cinese, no? Per tagliarmi i capelli, per il babysitting. E quattro Quindi mi porta lì, e madre mi porta, e fa, allora bambino Alberto, qui tagliano i capelli e fanno anche il babysitting. Dico, e vabbè, vedremo di cosa si tratta, dico. E lei va, dico, sì ma, mamma, non è che potevi... È andata, no? È andata, è lì, groppo in gola, no? Però poi passa. Quindi poi c'erano... Un cinese e una cinese? Adulti, molto adulti. Adulti, No, adulti, non adulti, sono bambini, sono adulti, non sono bambini, no? Che hanno detto bambino Alberto. Alberto, no? Senza la R, perché loro la R non riescono a dirla, no? Alberto. Vieni, vieni con noi che ti portiamo nell'etlo. Il retro, no? Fai subito l'equivalenza, no? Letlo, retro. Il retro del negozio. Quindi lì nel retro fanno le tinture per le signore, no? E sai che c'è ragione. Cinesi, ma adesso parlo io, parlo con la R, capito? Quindi queste tinture di tutti i colori, no? Con questi prodotti cinesi che c'è un odore terribile, acre, prodotti. Ma no, fritto, lì quelli sono gli involtini di primavera, mica qui, mica il ristorante, un parrucchiere! No, quello, dopo ti dico, magari, no, quello niente. E quindi, no, c'è sta roba qua che è chimica. Roba che di prodotti terribili, no? Un odore acre. che attacca la gola, no? Quindi sono stato lì, dopo 10 minuti, e sono svenuto. E sono svenuto due volte. E lì mi hanno soccorso, no? Lì bisogna dire che sono stati pronti, no? Tutti coi sali, sali cinesi anche quelli, no? Quindi, comunque mi sono svegliato. E a un certo punto qui, è ora di... dopo 3 ore, 2 svenimenti, è stata l'ora di tagliarmi i capelli, no? Capelli, tu dici? Hai visto come li ha tagliati, no? Quindi porta di là, poltroncina, comoda, eh? È comoda. E poi qui davanti alla poltroncina, no? Sotto lo specchio ci sono dei monitor che passano dei video di cantanti cinesi, no? Tutto ad alto volume. Musica! Quindi lì mi sono trovato qui, tra i miasmi delle tinture, no? E ste cantilene cinesi cominciato a non capire più niente, no? Io sentivo solo, cioè, una voce da lontano, sentivo solo quel tipo che mi tagliava i capelli, che mi chiedeva tagliare. Tagliare! E io dicevo tagliare, sì, sono qua apposta, no? A parte il babysitting che è andato come è andato. Sono qui per tagliare. Poi un attimo, quando ancora ero abbastanza vigile, gli ho chiesto se gli erano, puto a caso, gli arnesi fossero sterilizzati, no? E sterilizzati, mi sembra il minimo, no? Allora gliel'ho chiesto e questo qui, ha cominciato a urlare, subito, Mau! E qui lì, hai capito, lì a un certo punto ho perso un po', lì è scattata la crisi isterica, no? Per calmarmi mi hanno dato un cicchetto di sake, no? Il sake deve essere una medicina inglese, tipo la nostra aspirina, ma il sake. E a un certo punto, ho perso conoscenza, no? E poi mi sono risvegliato nel mio letto. E sì, sake! Il sake, e no, mi sono svegliato nel mio letto e poi mi ho scoperto con l'impunizione. I miei mi hanno chiuso a chiave in camera per punirmi. Sai perché? Perché dicono che io, ogni babysitter non resiste più di un giorno con me. Ma a te ti sembra una cosa che... ti sembra un babysitting quello lì? È babysitting! È cinese. Hey! Every Jill's a boy and girl, all around the Jill's the world, gonna do the Jill's the rock, all around the Jill's the clock. Check me Jill's, check me quick, all around the Jill's the clock. Hey, let's do the Jill's the rock. Che bel momento di quiete, K, eh? Ecco, ma come? Ma va! Ma non capisco, ma scusa, ma anche all'antivigilia del giorno dei morti c'è il Mardi Gras. Ma dai! Il Mardi Gras è per sempre, rassegnati! Non possiamo andare avanti così per tanto, K. Ma perché? Ma perché, no, te l'ho già detto mille volte, questo è un asilo gestito dalle suore e le ballerine creole discinte non saranno tollerate ancora a lungo. Ma le suore non si sono ancora accorte di niente. Vabbè, per forza. Che pregano. E dopo i festeggiamenti metto sempre tutto a posto io da solo, perché tu sei troppo ubriaco di barbon, di pastis. Voilà le Mardi Gras. Il y a le Mardi Gras. On va au Mardi Gras. Madonna, dai. C'est ça le Mardi Gras. Vabbè, però senti, potresti dirlo ai tuoi amici di non salire. Bla bla le Mardi Gras. Con i piedi nudi, guarda, con i piedi nudi sudati. Sui banchi dei bambini, che schifo, sulla cattedra. Guarda che roba, no, dai, no, ma non si può. Sulla cattedra c'è sempre e solo il tuo amichetto Jérôme. Ma guarda che è proprio una peste. Ma chi? È Jérôme, un peperino. Non ho di competere. Vedi che alla fine ti diverti anche tu, bravo. È una festa. Ma Jérôme! Poi domani è la festa dei morti. Devo usare il... Domani è i morti, Ebbene, no, domani è i morti. Quindi divertiti adesso, che domani... è morto. Mancano 52 giorni alla fine del mondo.